Capitolo 168. Il sacco di Troia. Odisseo, pare, aveva promesso a Elena e a Ecuba che coloro che non avessero opposto resistenza sarebbero stati risparmiati. Tuttavia i greci sciamarono silenziosamente nelle strade bagnate dalla luce della luna, irruppero nelle case incustodite e sgozzarono i troiani addormentati. Ecuba si rifugiò con le figlie presso un antico albero di alloro che sorgeva accanto all'altare di Zeus del cortile, e colà trattenne Priamo e lo indusse a non gettarsi nel folto della mischia. «Rimani tra noi, signore», lo supplicò, «in questo luogo sicuro. Sei troppo vecchio ormai e troppo debole per combattere». Priamo le obbedì, sia pure a malincuore, ma quando vide il figliol suo Polite accorrere inseguito dai greci e cadere trafitto ai suoi piedi, scagliò la lancia contro Neottolemo, l'uccisore. Il colpo andò a vuoto e Priamo fu strappato dai gradini dell'altare che rosseggiavano del sangue di Polite e ucciso sulla soglia del suo stesso palazzo. Poi Neottolemo, memore dei doveri filiali, ne trascinò il corpo sulla tomba di Achille presso il promontorio Sigeo, dove imputridì, decapitato e insepolto. Frattanto Odisseo e Menelao avevano raggiunto la casa di Deifobo e colà si impegnarono in una sanguinosa battaglia dalla quale uscirono vittoriosi soltanto grazie all'aiuto di Atena. Non si sa chi dei due uccise Deifobo. Taluni dicono che Elena stessa gli immerse una spada nella schiena, e questo suo gesto, unitamente alla visione del suo seno nudo, indebolì talmente la volontà di Menelao, il quale aveva giurato «dovrà morire», che egli gettò le armi e permise a Elena di raggiungere sana e salva le navi. Il corpo di Deifobo fu orrendamente mutilato, ma in seguito Enea gli innalzò un monumento funebre sul capo reteo. Odisseo vide Glauco, uno dei figli di Antenore, che fuggiva in una straducola accanitamente inseguito da un gruppo di soldati greci. Accorse allora in suo aiuto e salvò anche il fratello di Glauco, Elicaone, che era stato gravemente ferito. Menelao appese una pelle di leopardo sulla porta della casa di Antenore per indicare che non si doveva saccheggiarla. Antenore, sua moglie Teano e i loro quattro figli poterono andarsene liberamente, portando con sé i loro beni. Alcuni giorni dopo salparono su una delle navi di Menelao e si stabilirono dapprima a Cirene, poi in Tracia e infine a Enetica sul mare Adriatico. Enetica fu così chiamata perché Antenore si mise alla testa di certi profughi giunti da Enete in Paflagonia, e il cui re Pilemene era caduto a Troia e li guidò in una guerra vittoriosa contro gli Euganei nella pianura settentrionale dell'Italia. Il porto dove sbarcarono fu chiamato Nuova Troia e i suoi abitanti sono ora noti come Veneti. Si dice anche che Antenore abbia fondato la città di Padova. Secondo i Romani, l'unica famiglia troiana risparmiata dai Greci, oltre a quella di Antenore, fu la famiglia di Enea, il quale, come Antenore, aveva invano cercato di indurre i troiani a restituire Elena e a concludere un'equa pace. Agamennone, scorto Enea, che, caricatosi il venerando Anchise sulle spalle, si avviava verso la porta dardanica, senza nemmeno guardarsi attorno, diede ordini perché un figlio così pio e rispettoso non fosse molestato. Altri, tuttavia, dicono che Enea si trovava in Frigia quando Troia cadde. Altri ancora che egli difese Troia fino all'ultimo, poi si ritirò sulla cittadella di Pergamo e, dopo aver resistito tenacemente, mandò i suoi compagni sul monte Ida col favore delle tenebre e li seguì non appena possibile, portando con sé i familiari, il tesoro di casa e le immagini sacre, e che quando i greci gli proposero termini di pace onorevole, emigrò a Pellene in Tracia e morì colà, oppure a Orcomeno in Arcadia. Ma i romani sostengono che dopo molte peregrinazioni egli giunse infine nel Lazio, dove fondò la città di Lavinia e, caduto in battaglia, ascese ai cieli. Queste però sono favole. In verità Neottolemo lo portò con sé come schiavo, ma si dichiarò disposto a liberarlo dietro riscatto che in seguito i Dardani pagarono. La moglie di Elicaone, Laodice, che alcuni dicono moglie di Telefo, si era giaciuta con Acamante l'Ateniese, quando egli giunse a Troia con l'ambasceria di Diomede 10 anni prima e segretamente gli generò un figlio chiamato Munito, che fu allevato da una schiava di Elena, Etra, madre di Tesio e dunque bisnonna del piccino. Alla caduta di Troia, mentre Laodice stava nel santuario di Troo, accanto alle tombe di Cilla e di Munippo, la terra si aprì e la inghiottì davanti agli occhi degli astanti. Nella confusione che seguì, Etra fuggì con Munito al campo greco, dove Acamante e Demofoonte riconobbero in lei la loro nonna che credevano morta da tempo, e subito, avvicinatisi ad Agamennone, chiesero che la vecchia fosse rimpatriata con la sua compagna di schiavitù, la sorella di Pirito. Menesteo di Atene appoggiò la loro richiesta, e poiché Elena aveva più volte dimostrato la sua antipatia per Etra, schiacciandole la testa sotto i piedi o tirandole i capelli, Agamennone accolse le richieste di Acamante e di Demofoonte, ma in cambio volle che rinunciassero alla loro parte del bottino. Sventuratamente, quando Acamante sbarcò in Tracia durante il viaggio di ritorno in patria, Munito, che lo accompagnava, morì per il morso di un serpente. Non appena ebbe inizio il massacro in Troia, Cassandra si rifugiò nel tempio di Atena, aggrappandosi al simulacro ligneo che aveva sostituito il palladio. Il piccolo Aiace la trovò in quel sacro luogo e cercò di trascinarla via, ma Cassandra abbracciava la statua con tanta forza che Aiace fu costretto a portar via anche quella. Il concubinaggio con i guerrieri greci fu sorte comune per le donne troiane. Agamennone tuttavia volle Cassandra per sé, come giusta ricompensa al suo valore, e Odisseo, compiacente, appoggiò la sua richiesta dicendo che Aiace aveva violato Cassandra nel tempio. Ed ecco perché la statua teneva gli occhi sempre rivolti al cielo, come se fosse inorridita. Cassandra dunque divenne la schiava di Agamennone, mentre Aiace si meritò l'odio dell'intero esercito, e quando i greci si preparavano a salpare, Calcante dichiarò nel concilio che bisognava placare Atena per l'insulto fatto alla sua sacerdotessa. Allo scopo di ingraziarsi Agamennone, Odisseo propose di lapidare Aiace, ma egli fuggì rifugiandosi presso l'altare di Atena, dove giurò solennemente che Odisseo mentiva come sempre. E nemmeno Cassandra confermò l'accusa di Odisseo. Tuttavia non si poteva trascurare la profezia di Calcante. Aiace dunque si dichiarò pentito per aver rimosso il simulacro della dea dal tempio e promise di espiare la propria colpa, ma ne fu impedito dalla morte poiché la nave che lo portava in patria naufragò presso le rocce Giree. Quando Aiace cercò di raggiungere la riva, Posidone polverizzò col tridente lo scoglio cui Aiace si aggrappava. O come altri dicono, Atena prese in prestito un fulmine da Zeus e glielo scagliò sul capo. Tuttavia Teti seppellì il suo corpo nell'isola di Micono, e i suoi compagni vestirono di nero per un intero anno, mentre ancora oggi ogni anno varano una nave dalle vele nere colma di doni e la bruciano in suo onore. L'ira di Atena ricadde allora sull'Ocrio Punzia e l'oracolo delfico avvertì gli antichi sudditi di Aiace che sarebbero stati perseguitati senza tregua dalla carestia e dalla pestilenza se non avessero inviato due fanciulle a Troia ogni anno per 200 anni. Da quel giorno le 100 famiglie più illustri di Locri si sono assunte quel compito come segno della loro nobiltà. Le fanciulle vengono estratte a sorte e sbarcate a notte fonda sul promontorio Reteo ogni volta in una stagione diversa. Le accompagnano parenti che conoscono bene la zona e possono introdurle di nascosto nel santuario di Atena. Se i troiani si impadroniscono di queste fanciulle, le lapidano, le bruciano e ne disperdono le ceneri in mare, ma se esse riescono a entrare nel tempio sono salve. Vengono poi sottoposte a tonsura, indossano vesti di schiave e sbrigano umili lavori nel sacro recinto finché un altro paio di fanciulle dà loro il cambio. Molti anni or sono, quando i traci occuparono Troia e uccisero una sacerdotessa locrese nel tempio stesso, i locresi decisero che la loro lunga penitenza poteva aver termine e non mandarono più fanciulle a Troia. Ma subito colpiti da carestia e pestilenza, si affrettarono a pagare l'annuale tributo e soltanto ora il termine fissato dall'oracolo sta per scadere. Codeste fanciulle raggiungono il tempio di Atena attraverso un passaggio sotterraneo il cui ingresso segreto si trova a una certa distanza dalle mura e che conduce al cunicolo di cui si servirono Odisseo e Diomede per rubare il palladio. I troiani ignorano come le fanciulle riescano a introdursi nel tempio e non sanno nemmeno in quale notte si effettui il cambio tra la coppia uscente e quella entrante. Raramente dunque le scoprono e soltanto per caso. Dopo il massacro, gli uomini di Agamennone smantellarono e bruciarono Troia. Si divisero il bottino, rasero al suolo le mura e sacrificarono vittime agli dei. Nel concilio poi si discusse per un certo tempo che cosa si doveva fare di Astianatte, il figlio bambino di Ettore, chiamato anche Scamandro. E quando Odisseo dichiarò che tutta la discendenza di Priamo doveva essere estinta, Calcante decise del destino del bimbo profetizzando che, se fosse vissuto, egli avrebbe vendicato i suoi genitori e la sua città. Sebbene tutti gli altri principi inorridissero all'idea dell'infanticidio, Odisseo, senza batter ciglio, scagliò Astianatte giù dalle fortificazioni. Ma altri dicono che Neottolemo, che aveva avuto in sorte Andromaca come schiava durante la divisione del bottino, le strappò Astianatte, anticipando le decisioni del concilio, lo fece roteare, tenendolo per un piede, e lo scagliò contro le rocce sottostanti. Altri dicono che Astianatte si gettò giù dalle mura, mentre Odisseo stava ripetendo ad alta voce la profezia di Calcante e invocava gli dei perché approvassero quel rito crudele. Il concilio discusse anche della sorte di Polissena. Achille Morente aveva chiesto che Polissena fosse sacrificata sulla sua tomba e recentemente era apparso più volte in sogno a Neottolemo e ad altri capi, minacciandoli di bloccare la flotta a Troia con venti contrari se il suo desiderio non fosse stato esaudito. Si udì anche una voce gemere dalla tomba: «È ingiusto che io non abbia una parte del bottino!» E uno spettro apparve sul promontorio retio, chiuso in una lucente armatura, e gridò: «Ve ne andate dunque, greci, senza avere onorato la mia tomba?» Calcante dichiarò che non si poteva negare il sacrificio di Polissena ad Achille, che l'aveva amata. Agamennone non era di quel parere e protestò che troppo sangue era già stato versato, sangue di vecchi e di bambini, oltre che di uomini validi, per appagare la vendetta di Achille. Inoltre i morti, sia pure famosi, non potevano accampare diritti sulle donne vive. Ma Demofoonte e Acamante, i quali erano stati privati della loro parte di bottino, protestarono che Agamennone parlava così soltanto per fare un piacere alla sorella di Polissena, Cassandra, e piegarla più facilmente alle sue voglie. Chiesero dunque: «Chi merita maggior rispetto, la spada di Achille o il letto di Cassandra?» La discussione divenne sempre più accesa e Odisseo si interpose, inducendo Agamennone a desistere dal suo rifiuto. Il concilio allora incaricò Odisseo di andare a prendere Polissena, mentre Neottolemo avrebbe officiato come sacerdote. Polissena fu sacrificata sulla tomba di Achille di fronte all'intero esercito schierato, che si affrettò poi a darle onorevole sepoltura, e subito si alzò un vento favorevole. Ma alcuni dicono che la flotta greca aveva già raggiunto la Tracia quando apparve l'ombra di Achille, minacciando di far soffiare venti contrari, e che Polissena fu dunque sacrificata laggiù. Altri ancora sostengono che essa si recò di sua spontanea volontà presso la tomba di Achille e si gettò sulla punta di una spada per espiare il torto che aveva fatto all'eroe. Benché Achille avesse ucciso Polidoro, figlio di Priamo e di Laotoe, il più giovane e il più amato della stirpe regale troiana, sopravvisse tuttavia un altro principe dello stesso nome. Egli era figlio di Priamo e di Ecuba ed era stato mandato per maggiore sicurezza nel chersoneso Tracio, dove sua zia Iliona, moglie di re Polimnestore, lo allevò con ogni cura. Iliona infatti trattò Polidoro come se fosse davvero fratello di Deifilo, il fanciullo che essa aveva generato a Polimnestore. Agamennone, per completare lo sterminio consigliato da Odisseo, inviò messaggeri a Polimnestore promettendogli Elettra come moglie e grande quantità d'oro se gli avesse consegnato Polidoro. Polimnestore accettò i doni, ma non ebbe il coraggio di far del male a un ragazzo che aveva giurato di proteggere, e uccise invece il proprio figlio Deifilo alla presenza dei messaggeri che se ne andarono soddisfatti e ingannati. Polidoro, che non conosceva il segreto della sua nascita, ma si rendeva conto di essere la causa di un dissidio tra Iliona e Polimnestore, si recò a Delfi e chiese alla Pizia: «Quale pena tormenta i miei genitori?» E la Pizia rispose: «Ti par cosa da poco vedere ridotta la tua città in cenere, tuo padre sgozzato e tua madre in schiavitù, se vieni a pormi questa domanda?» Polidoro si precipitò in Tracia, roso dall'ansietà, ma trovò tutto come l'aveva lasciato. «Possibile che Apollo si sia sbagliato?» pensò. Iliona gli disse allora tutta la verità, e indignata che Polimnestore avesse ucciso il figlio per cupidigia d'oro e brama di un'altra regina, dapprima l'accecò e poi lo uccise con una pugnalata. Altri dicono che i greci minacciarono di far guerra a Polimnestore se non avesse loro consegnato Polidoro, e quando Polimnestore infine cedette alle minacce, condussero il ragazzo al campo e lo offrirono ai troiani in cambio di Elena. Priamo rifiutò persino di discutere quella loro proposta e Agamennone fece allora lapidare Polidoro dinanzi alle mura della città. Poi mandò il suo cadavere a Elena con il seguente messaggio: «Mostra codesto cadavere a Priamo e chiedigli se non rimpiange la sua decisione». Ma fu un atto inutilmente crudele, poiché Priamo si era impegnato sulla parola a non restituire Elena finché essa fosse sotto la protezione di Afrodite. Era tuttavia pronta a riscattare Polidoro offrendo ai greci la ricca città di Antandro. Odisseo ebbe in sorte Ecuba come schiava e la portò nel chersoneso Tracio, dove la regina coprì di tali invettive Odisseo e tutti gli altri greci per la loro barbarie e per mancanza di parola che fu necessario metterla a morte. Il suo spirito prese la forma di una di quelle orrende cagne nere che seguono Ecate, balzò in mare e nuotò verso l'Ellesponto, il luogo dove fu sepolta viene chiamato Tomba della Cagna. Secondo un'altra versione, Ecuba, dopo che Polissena fu sacrificata, trovò il corpo di Polidoro sulla spiaggia, là dove le onde l'avevano spinto. Il ragazzo infatti era stato ucciso da Polimnestore, che voleva tenere per sé l'oro inviatogli da Priamo per l'educazione del figlio. Ecuba mandò a chiamare Polimnestore e gli promise di rivelargli dove era nascosto il tesoro reale tra le rovine di Troia. Ma quando egli le fu davanti con i suoi due figlioli, estrasse una spada dalle vesti, uccise i due ragazzi e cavò gli occhi a Polimnestore, un atto di crudele furore che Agamennone perdonò a Ecuba per via della sua tarda età e delle molte sventure subite. I nobili traci avrebbero voluto vendicarsi lanciando contro Ecuba dardi e pietre, ma essa si trasformò in una cagna chiamata Mera e cominciò a correre in tondo, ululando, in modo tale che tutti si ritirarono sgomenti. Alcuni dicono che Antenore fondò una nuova Troia sulle rovine dell'antica, altri che Astianate sopravvisse e divenne re di Troia quando i greci se ne furono andati, e che quando fu scacciato da Antenore e dai suoi alleati, Enea gli ridiede il trono. A lui poi succedette Ascanio, figlio di Enea, come era stato profetizzato. Ma comunque siano andate le cose, Troia non fu più se non l'ombra della città di un tempo. Il trattamento pieno di considerazione fatto da Odisseo a traditori come Antenore e Calcante contrasta con la perfidia che egli dimostra verso i suoi onesti camerati Palamede, i due Aiaci e Diomede, e con la crudeltà dimostrata nei riguardi di Astianatte, Polidoro e Polissena. Ma poiché Giulio Cesare e Augusto si vantavano di essere discendenti di Enea, un altro traditore risparmiato da Odisseo e venerato a Roma come modello di pietà filiale, la satira implicita nelle parole di Omero ha perso il suo mordente per i lettori moderni. È un peccato che non siano giunte fino a noi, nei termini esatti, le invettive lanciate da Ecuba contro Odisseo e che dovevano senza dubbio esprimere quel che pensava veramente Omero dei greci. Ma il fatto che Ecuba, in greco Ecabe, fosse poi tramutata nella cretese Ecate Mera o Scilla, la cagna marina, lascia supporre che egli considerasse valide le sue maledizioni. I regni fondati sulla barbarie e la malafede non possono prosperare. Mera era l'emblema di Scilla nei cieli, la stella Cagna minore, e quando sorgeva le si offrivano sacrifici umani a Maratona, in Attica. La vittima più famosa di tali sacrifici fu il re Icario. Odisseo aveva sposato la figlia di lui e nel mito originale, senza dubbio, ne condivideva il destino. Il caso storicamente provato delle fanciulle di Locri è uno dei più singolari della storia greca, dato che il presunto stupro di Cassandra a opera del piccolo Aiace fu considerato dai mitografi più seri come un'invenzione di Omero, ed è evidente che le fanciulle locresi entravano nel tempio troiano in virtù di un diritto e non per scontare una pena. Se dobbiamo credere a quanto dice Enea Tattico parlando dei rischi che si corrono costruendo città con ingressi segreti, i troiani cercarono di impedire alle locresi l'accesso al tempio e il fatto che esse fossero trattate come schiave, se riuscivano a raggiungere l'altare della dea, e come rei di violazioni di confini, se non ci riuscivano, concorda con tale versione. Il piccolo Aiace era figlio del locrese Oileo, il cui nome, portato anche da un guerriero troiano ucciso da Agamennone, era una forma arcaica di Ilo. La Ilo di Priamo era stata, pare, colonizzata in parte dai locresi, una tribù preellenica di Lelegi. Essi ribattezzarono col nome di Fricone la montagna locrese prima chiamata Cuma e godettero per diritto ereditario del privilegio di fornire ad Atena un'aliquota di sacerdotesse. Continuarono a esercitare questo diritto per molti anni dopo la fine della guerra di Troia, quando la città aveva perduto ogni importanza politica ed era diventata soltanto meta di pellegrinaggi sentimentali, con gran disgusto dei troiani che consideravano le fanciulle alla stregua di nemiche. La maledizione della durata di 1000 anni ebbe termine nel 264 avanti Cristo, il che dovrebbe corrispondere con la datazione Delia e dunque anche omerica della guerra troiana, benché Eratostene la porti a 100 anni più tardi. Il passaggio segreto di Odisseo fu scoperto nelle rovine di Troia ed è descritto da Walter Leaf nella sua Troy, A Study in Homeric Geography. Ma perché mai Teano passò al nemico e consegnò nelle sue mani il palladio? Probabilmente perché, essendo locrese, Teano fu anche il nome di una famosa poetessa di Locri e Pizzefiria, essa disapprovava la politica commerciale antilocrese di Priamo, oppure sapeva che Troia sarebbe caduta e voleva che il simulacro fosse portato in salvo anziché catturato da Agamennone. Omero fa di Teano una figlia del tracio Cisseo e vi era almeno una colonia locrese in Tracia, Abdera. Come locrese, tuttavia, Teano avrebbe dovuto avere una discendenza matrilineare e fu probabilmente soprannominata Cisseide, donna dell'Edera, in onore di Atena, la cui massima festività cadeva nel mese dell'Edera. Sofocle, nell'argomento del suo Aiace, parla di una disputa di Odisseo con Aiace a proposito del palladio dopo la caduta di Troia, ma probabilmente si trattava del piccolo Aiace, poiché il grande si era già ucciso. Dobbiamo dunque supporre che fosse il piccolo Aiace, anziché Diomede, colui che accompagnò Odisseo nell'impresa e lo aiutò a sottrarre il palladio con la connivenza della sua compatriota Teano, che Odisseo accusasse poi il piccolo Aiace di aver messo le mani addosso a una sacerdotessa non locrese, la quale si aggrappava disperatamente al simulacro mentre Teano cercava di rimuoverlo dall'altare, e che in seguito Aiace, pur ammettendo il suo errore, si giustificasse dicendo che si era comportato nel modo meno brutale possibile, date le circostanze. Tale episodio spiegherebbe la versione dimostrata in seguito dai troiani nei riguardi delle sacerdotesse locresi, cui tentarono di negare l'accesso al tempio di Atena, trattandole malissimo e spargendo la voce che esse giungevano ogni anno a Troia per espiare la colpa di Aiace, anziché per esercitare un loro diritto. Può darsi che Odisseo abbia insistito nel volere accompagnare il piccolo Aiace nella cittadella in quanto Zacinto, l'avo eponimo dei suoi sudditi zacinzi, figurava nella lista degli antichi re troiani. Ciò spiegherebbe altresì perché Ecuba non denunciasse ai troiani Odisseo come spia quando egli si introdusse nella città. Anche Ecuba è descritta come figlia di Cisseo, Era forse un'altra Locrisia di Tracia che aiutò segretamente Aiace a rubare il palladio? Ecuba non aveva motivo per amare Odisseo, e forse lo aiutò a fuggire dalla città a patto che egli non la denunciasse a sua volta ai troiani. Odisseo, senza dubbio, sgattaiolò via tranquillamente dal passaggio segreto e non dalla porta principale, come si vantò in seguito. Presumibilmente gli chiese che la vecchia Ecuba fosse compresa nella sua parte del bottino, poiché essa era un pericoloso testimone e voleva tapparle la bocca in tempo. Pare, tuttavia, che la regina, prima di morire, svelasse tutta la verità sul furto del palladio. Una delle principali cause della guerra troiana fu il ratto della sorella di Priamo, Esione, madre del grande Aiace e dunque parente del piccolo Aiace. Ciò sta a indicare che c'era una vecchia ruggine tra Priamo e i Locresi di Grecia. Patroclo, che inflisse ai troiani così grave perdite, era anch'egli locrese e viene descritto come fratello di Abdero. Il nome di Astianatte, padrone della città, e la vivace discussione che sorse a proposito della sua morte, ci fa supporre che la raffigurazione da cui fu tratta la leggenda illustrasse un sacrificio infantile celebrato in occasione della fondazione di una nuova città, antica usanza che si praticava nel Mediterraneo orientale. Gli alleati di Agamennone non poterono assaporare a lungo le gioie della vittoria. Tra il 1100 e il 1050 a.C. l'invasione dorica soffocò la civiltà micenea nel Peloponneso e sopravvenne il Medioevo. Trascorsero un paio di secoli prima che gli Ioni, costretti dai Dori a emigrare in Asia Minore, iniziassero il loro rinascimento che si basò solidamente su Omero. Le peregrinazioni di Enea fanno parte della mitologia romana, non greca, e abbiamo dunque trascurato qui di parlarne.